get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Ciao a tutte da Laura e Pina e benvenuti alla 49esima trasmissione di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione autogestita a cura del coordinamento lesbiche romane nell'ambito del martedì femminista autogestito a Radio Onda Rossa 87900. Oggi volevo parlarvi della comunicazione delle donne. Dal 15 al 17 dicembre del 99, le studenti della Sapienza di Roma hanno organizzato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia una serie di seminari dal titolo Il genere come chiave di lettura transdisciplinare, un'esperienza di ricerca a confronto. Tra i vari sentieri proposti, tutti molto interessanti, come il sentiero dell'antropologia, della letteratura, delle scienze economiche e sociali, della storia, della politica, delle scienze e delle biotecnologie, volevo dirvi alcune cose sul sentiero della comunicazione. Per approfondire questo percorso delle donne, sono state invitate Miriam Tola su Il mostruoso femminile tra i cristalli di futuro, Loredana Rotondo su Percorsi femministi nella comunicazione radiotelevisiva e l'associazione Visibilia sull'immagine, strumento di affermazione e negazione, il soggetto lesbico dal cinema hollywoodiano al cinema indipendente. Io ho trovato particolarmente interessante il seminario di Loredana Rotondo. Quest'ultima ha voluto porre un accento sulle innovazioni nell'ambito della produzione radiotelevisiva, nonostante si sia ancora in una fase in cui dinamiche discriminatorie nei confronti delle donne sono presenti sia in campo artistico che culturale. Alle donne non è concesso simbolicamente di essere creative, come se ci fosse un attrito simbolico, difficile da rimuovere, ma i cambiamenti a partire dagli anni 70 con la produzione del documentario Processo per stupro o della serie televisiva Riprendiamoci la vita hanno creato le condizioni per poter sperimentare dei progetti alternativi. Nel settore della radiofonia, infatti a Rai International nel 98 con il progetto Donna, si sono avute delle proposte di temi e di linguaggi nuovi attraverso un tentativo sistematico di contaminazione. Il progetto ha sperimentato anche una diversa gestione del potere, permettendo la realizzazione di diversi prodotti legati il più possibile da un'unica cifra stilistica. Infatti la ricerca di espressione passa attraverso il punto di vista delle donne sul mondo e questo progetto non è stato soltanto l'occasione per dare uniformità al senso di una cultura delle donne, ma anche per concertare tempi, voci e richiami. A sostegno di questo progetto vi sono motivi di ordine differente. Il primo corrisponde ad una necessità storico-politica, l'altro a delle prospettive di creazione di un nuovo linguaggio. La prima necessità si colloca all'interno di una politica globale nei confronti della condizione femminile, che intende cambiare non soltanto il ruolo delle donne nella società, ma la società stessa. Valorizzare questa differenza di genere, evidenziare la preziosità dell'esperienza femminile, della sua sapienza pratica ed intellettuali, sono delle operazioni che raramente vengono realizzate. Questo progetto, in base a quello che ci ha comunicato Loredana Rotondo, è stato un chiaro esempio di come la libertà femminile, una volta messa all'opera, mostra di avere capacità, di avere delle risorse, di avere una possibilità, sia in chiave tematica che in chiave espressiva. Tutto questo è fortemente rivoluzionario, perché crea uno stile di rapporto, un modo di far nascere, di far camminare progetti, su una maniera di stare insieme e di fare politica e professione. non vorrei sembrare di parte, ho trovato comunque molto interessante anche il seminario tenuto da Marina e Cristina dell'Associazione Culturale Lesbica Visibilia, che ogni anno organizzano a Bologna il Festival Internazionale del Cinema Lesbico. Il festival è giunto ormai alla sua 8ª edizione e si svolgerà dal 24 al 27 febbraio al Cinema Multisala Nosadella. L'associazione Visibilia ci ha proposto 3 spezzoni del cinema lesbico che circola nell'ambito dei tradizionali circuiti: Butterfly Kiss, Creature del Cielo e Inserzione Pericolosa, per farci vedere come nel mondo viene proposta l'immagine lesbica nel cosiddetto circuito tradizionale. Nel mondo attuale l'immagine ha preso il sopravvento, i mass media sono concentrati sulla rappresentazione ma anche sulla non rappresentazione. La storia di ogni tipo di cultura passa attraverso l'intreccio tra rappresentato e irrappresentabile. Anche nel linguaggio, nominare diventa un atto di creazione delle cose e il vuoto di parola rimanda ad un vuoto di essere. Quando la cultura si sente forzata a rappresentare l'irrappresentabile, dietro la spinta di realtà sociali emergenti che acquistano visibilità o per la presenza o per aver individuato dei target di audience, essa lo fa tramite degli stereotipi, ancorando il soggetto alieno ai più radicati pregiudizi dell'inconscio collettivo. Lo stereotipo quindi diventa l'unica modalità di rappresentare l'irrappresentabile, però si tratta di rappresentazioni che non corrispondono affatto ai vissuti concreti dei soggetti e quindi lo stereotipo, al pari dell'immagine, nega pur rappresentando. Anche il cinema, quando si appropria di un soggetto alieno, lo deforma, caricandolo delle proiezioni collettive, assommando e incrociando su di esso delle perversioni e delle deviazioni date come strutturali e intrinseche di quella identità. In questo modo chiunque si sente chiamato a giudicare della natura del soggetto, innescando dei meccanismi di rifiuto o di accettazione a seconda dei livelli e degli stili di manipolazione dell'immagine. Le prime apparizioni del soggetto lesbico da parte delle grandi produzioni dell'industria cinematografica risalgono agli inizi degli anni 30. Si trattava di figure perverse di sorveglianti delle carceri femminili, di bisbetiche istitutrici di collegi brulicanti di ingenue fanciulle di buona famiglia, di donne che sceglievano il travestitismo, assumendo dei ruoli e dei comportamenti maschili, storie con finali sempre drammatici. Nel tempo, sullo schermo affiorano sparuti decontestualizzati ammiccamenti al soggetto lesbico, che costringono una parte delle spettatrici a spericolate letture infratestuali e anche a poderose operazioni di trascodifica. Un pubblico di donne lesbiche che non ha strumenti per contestare quei modelli abortivi e le assume su di sé, a conferma della tragicità delle proprie esistenze. Negli anni 70 e 80 appaiono dei modelli più espliciti, sempre legati a situazioni patologiche e non estendibili al soggetto lesbico, se non tramite una arbitraria, drammatica imposizione. È negli anni 90 che il soggetto lesbico subisce una metamorfosi, fungendo da controfigura dei soggetti psicopatici, psicolabili, disadattati, serial killer, affette da delirio di persecuzione, figure perdenti, destinati a sublimare una sessualità senza sbocchi. Ma fortunatamente al cinema ufficiale si contrappone da tempo un cinema indipendente, un cinema di movimento che potrebbe essere definito lesbo-femminista, attualmente molto ramificato e diffuso nei paesi occidentali. Un cinema diretto, spesso prodotto da donne, che restituisce al soggetto lesbico dignità e visibilità, riflettendo le sue reali dimensioni esistenziali e le sue problematiche. Le modalità di questa autorappresentazione, che parte da un soggetto parlante di sé, fanno dell'immagine uno strumento di affermazione.

Allora, contrariamente a quanto affermato da Laura all'inizio di questa trasmissione, ci sono anch'io, sono Caterina e volevo leggervi un pezzo che avevamo preparato, perché ci sembrava importante che venisse dato in questa trasmissione. Parlare oggi di discriminazione sessista può sembrare forse volersi aggrappare a discussioni vetero-femministe, ma come non sottolineare che, nonostante se ne parli da anni, nulla sembra essere cambiato. E la cosa oltremodo sconsolante è notare che, magari in un periodo a noi molto caro come il femminismo degli anni 70, certe notizie facevano scalpore, mentre oggi vengono relegate a trafiletti di poche righe e neanche riportati su tutti i giornali. Di cosa stiamo parlando? Di bambine. Di bambine alle quali viene data sicuramente meno considerazione, meno importanza, meno credito, meno rispetto, meno futuro. Come non notare che il rincaro della benzina o la classifica del campionato di calcio godono sicuramente di un'attenzione maggiore? Sembra infatti che non interessi più di tanto il fatto che, per esempio in Somalia, si pratica di prassi l'infibulazione alle bambine di 5 anni o che nel Bangladesh si ritiene opportuno salvaguardare di più i bambini che le bambine. Infatti, in quella situazione già abbastanza disastrata per l'infanzia, si preferisce dare più cibo ai maschi e meno alle femmine, in nome di un criterio tanto assurdo quanto inaccettabile, il quale stabilisce che, per il bene del paese, è più importante che sopravviva un maschio anziché una femmina. Come non indignarsi? Saremo pure delle vetero femministe, ma non ci siamo ancora abituate a leggere certe cose facendo finta di niente, e spontaneamente ci chiediamo: è mai possibile che, in virtù del benessere del maschio, nel 2000 si continui ancora a devastare il corpo di una donna? Quando tutto questo finirà? Rosina, nella precedente trasmissione, ci ha letto il delirante messaggio di un comitato pro-infibulazione che sta trovando spazio in Francia e al quale sembra proprio che nessun governo o politico abbia dichiaratamente mosso obiezioni o contrapposto azioni legali. E non si parli di rispetto delle tradizioni, perché il rispetto parte innanzitutto dalla salvaguardia e la garanzia del benessere di tutte e tutti. Per cui dare priorità a un sesso sull'altro è già sinonimo di non rispetto. E ancora, è mai possibile continuare a credere che risollevare le sorti del genere umano sia una prerogativa solo del maschio? Ipotizzare che ciò sia vero, per cui è più importante che sopravviva un maschio invece che una femmina, significa credere che nessuna donna potrà fare qualcosa di importante. Significa negare le potenzialità che hanno le donne. Significa relegarle ancora al ruolo di procreatrici e che prima o poi metteranno al mondo un maschio, magari un eroe, uno scienziato, un luminare, un santone, un altro dio, in grado di fare qualcosa per l'umanità. Alle donne, a quelle stesse donne, tutto ciò viene negato a priori. Infatti non si prende neanche in considerazione l'eventualità che forse potrebbe essere una lei anziché un lui. Leggendo questo trafiletto su Repubblica del 17 dicembre 99, siamo rimaste allibite nel constatare che, nonostante il piccolo sforzo fatto da questo giornale nel riportare la notizia, la stessa firmataria del trafiletto, Milly Carlucci, ambasciatrice di buona volontà dell'UNICEF, ha dichiarato che l'organizzazione della quale fa parte affronta questi problemi culturali di enorme portata attraverso l'istruzione, creando scuole, e attraverso il gioco, ma ha concluso dicendo: così le bambine di oggi, future madri, potranno forse scegliere in modo diverso. Future madri? Ma come? Perché si continua a dare per scontato che le bambine saranno per forza future madri? E tutte le altre cose che una donna può fare? Ma perché diavolo si limita la possibilità della donna di incidere nel mondo solo attraverso la procreazione? E non crediate che, essendo noi lesbiche, stiamo pensando solo ed esclusivamente ad una scelta non eterosessuale. Una cosa però la concordiamo con Milly Carlucci. Hai ragione tu quando dici che è un problema culturale. E dalla voce di Tina Turner, un augurio a tutte le bambine, di ieri, di oggi e di domani. Whatever you want. Tutto ciò che vuoi.

State per organizzarvi per il Capodanno del terzo millennio? Quello che possiamo proporvi è una festa di Capodanno con un grande cenone, musica live e DJ, gite guidate di sci di fondo ed escursionismo alla Filanda di Acquiterme, dal 27 dicembre, sì è vero, è cominciato già ieri, fino al 2 gennaio. Per informazioni il numero di telefono è 01 44 323 956. E ancora, un'altra vacanza di fine anno solo per donne a Cosse-Lamas, Francia, dal 26 dicembre al 2 gennaio e settimana bianca dal 12 al 19 febbraio. Per informazioni 0033 4 67 81 5277 oppure email cosse-lamas@vanadu.fr. Altro grande veglione di fine anno anche alla Ruche, nella campagna del Poitiers, dove sono possibili vacanze con biliardo, cene e giochi davanti al camino. Per informazioni 00 33 5 458 57 515. Se preferite restare in Italia, allora vi possiamo aspettare al Millennium di via Rivareno 77 a Bologna il 31 dicembre alle ore 23. L'Associazione Culturale Lesbica Visibilia organizza il Capodanno di autofinanziamento. E per informazioni 051 263 592. Pianeta Viola di Brescia organizza Amore, Eros e altri accidenti, corso teorico pratico sulla sessualità lesbica. Il primo appuntamento c'è stato il 2 dicembre e il tema era Perché questo è il bello dell'amore, le parole per dirlo. Prossimo appuntamento 13 gennaio del 2000, La trappola del desiderio, dove nasce e come si alimenta il desiderio lesbico. Poi ancora il 3 febbraio, Sesso senza sentimento, segreti, silenzi e bugie. E il 2 marzo alle porte dell'AREM, fedeltà a se stesse e o alla propria partner. Ancora 2 appuntamenti, il 6 aprile desideri in libertà, realtà, fantasie e fuochi d'artificio e 4 maggio la camera chiusa, il maschile dentro di noi. Questi incontri, che si svolgeranno nella sede di Pianeta Viola alle ore 21, verranno organizzati con tecniche interattive per favorire la partecipazione e il coinvolgimento di tutte le partecipanti. Sono previste uno stage di una giornata in primavera di lavoro corporeo e un appuntamento a un bagno turco per sole donne. Per informazioni Pianeta Viola, via Villa Glori, 10B, 2500 Brescia. Il telefono fax è 030 24 10 604. E adesso un po' di notizie sulle testate e siti di donne dedicati all'informazione. In Italia abbiamo il Paese delle Donne, da più di 13 anni è quello che le donne dicono, pensano e fanno in Italia e nel mondo. E il sito internet è http://www.womennews.net. Vi è anche la più recente delle riviste online dedicate al rapporto donne e tecnologie, si chiama Dolls e il sito internet è http://www.dolls.net. Vi è poi DV Press, l'agenzia online di informazione di donne, http://www.mclink.it/n/DV Press. Si è aggiunta poi nel 97 alle riviste di donne, alle riviste italiane di Donne in Rete, Marea, con un sito molto bello e interessante che merita sicuramente una visita. E il sito è http://www.marea.it. E anche la prima rivista italiana interamente dedicata al tema donne e tecnologia. Sullo stesso sito sono disponibili anche i risultati di una ricerca sulle donne in internet e prossimamente articoli e contributi di riflessione su donne e tecnologie. Nelle librerie è possibile trovarlo anche sul supporto cartaceo. Stiamo parlando di Medea e Infoperla. Il sito è http://www.provincia.venezia.it/medea. Sul sito dell'associazione Mediterranean Media potete trovare moltissime informazioni sulle donne dell'area mediterranea. http://www.platonet.it/med. Nel mondo invece vi volevamo parlare di Women's International Net, http://www.winmagazine.base.org. Sempre ricchissima di articoli scritti da donne di moltissimi paesi del mondo, una rivista online che merita senz'altro una visita. È possibile sottoscriversi ad una mailing list e riceverla comodamente sul computer. Femminista poi, http://www.femminista.com, che merita sicuramente una visita, questo ricchissimo sito di una rivista americana online dall'esplicativo titolo. Ninja Manushi, http://www.manushi.unv.ernet.in, un'interessantissima rivista femminista indiana. Contiene articoli su donne e sviluppo, cultura e politica delle donne nell'intero continente asiatico. Vi è poi anche una rivista di giovani femministe australiana molto provocatoria che si chiama Geek Girl. http://www.next.com.au/spyfood/geekgirl. Infine le Penelope, http://www.mire.net/penelope, un sito di un'associazione francese che raccoglie 52 aderenti. Questo sito è nato come un esperimento per studiare come potrebbe essere un sito di informazione di, per e sulle donne. L'associazione è impegnata nella costruzione di una sorta di federazione di web che unisca tra loro tutte le donne francesi presenti su internet. Le associate lavorano rigorosamente in modo volontario e le capiamo benissimo. L'ultimo appuntamento per il Capodanno è organizzato dal Circolo Finisterre, che tra l'altro ha anche cambiato sede. Il nuovo indirizzo è Azione Gay e Lesbica, presso Anfrea del Sarto, via Manara 12, Firenze. Numero di telefono 055 671 320. La festa è Festa del Millennium, presso l'Auditorium FLOG. ciao a tutte, sono Pina. Vi volevo ricordare che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione autogestita a cura del coordinamento Lesbiche Romane, nell'ambito del martedì femminista autogestito sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Potete chiamarci qui in radio allo 06 49 1750, ma le possibilità di mettersi in contatto con noi non finiscono qui. Il telefono funziona. Vi ricordo il numero 06 68 64 201. Per le amanti dell'informatica c'è sempre il nostro indirizzo di email clrbp@hotmail.com. Vi ricordo che il telefono funziona anche come fax. In questi giorni, e sempre con maggiore insistenza, il mio pensiero va alla situazione attuale nel nostro paese. Mi accorgo che l'angoscia che mi divora è data dalla consapevolezza che l'ineluttabile sta per succedere nell'indifferenza più totale. In questi momenti il mio sguardo si posa sulle donne e cerco di trarne quella linfa vitale di cui ho bisogno in queste circostanze per non soccombere. Purtroppo, ovunque il mio sguardo si posi, intorno a me vedo il vuoto. Ho come la sensazione che un gas soporifero si sia impadronito delle coscienze di tutte noi. Anni di lotte, di conquiste sociali, di diritti acquisiti, stanno per essere spazzati via inesorabilmente. Ineluttabilmente, con una sorta di rassegnazione, ci stanno strappando dalle mani la democrazia. Quella stessa democrazia per la quale tanto faticosamente avevamo lottato. Il ruolo dei mass media in questi anni è stato determinante perché avvenisse l'omologazione quasi totale. Ai bei tempi, e lasciatemelo dire con una sorta di rimpianto, anche se mai avrei immaginato nella mia vita di dover dire tiempo belle una volta. Ad ogni azione corrispondeva una reazione. Oggi, ed è sotto gli occhi di tutte e di tutti, ci stanno smantellando lo Stato sociale, strappando il diritto di sciopero, il diritto al posto di lavoro, ci vogliono far credere che flessibilità è bello, ci dicono che non abbiamo diritto ad una vita privata nostra perché dobbiamo essere sempre e comunque disponibili in qualsiasi ora del giorno e della notte, in qualunque giornata, proprio perché non si sa se servi e quando servi e per quanto servi. Ci dicono che il futuro del lavoro è la flessibilità, per cui si parla sempre più spesso di lavoro in affitto, telelavoro, di part-time, di turni. Non abbiamo più diritto a programmare i nostri tempi, a soddisfare le nostre esigenze, a coltivare i nostri interessi. Dopo averci annientato la coscienza, vogliono rubarci l'anima prima ancora di distruggerci il corpo. La campagna sulla famiglia, che tanto è andata e va di moda, condividerlo o meno è ininfluente in questo contesto, è una pura mistificazione. Infatti l'incertezza del domani, il logorio della vita moderna, lo stress legato al lavoro precario sono uno scenario che non può favorire la crescita di tutto ciò. Che dire della campagna destabilizzante nei confronti del pubblico impiego? Negli ultimi tempi, con un attacco senza precedenti, si è creata nell'opinione pubblica la convinzione che gli impiegati statali erano dei fannulloni buoni a nulla, cosiddetti mangiapane a tradimento. Qualcuno ha mai pensato che il vero obiettivo non erano loro, ma lo smantellamento dello Stato sociale? In questo modo vogliono indurci a credere che privato è bello. Bello ricorrere alle pensioni private, bello rivolgersi ai medici privati. Peccato che non sia tanto bello pensare che in futuro i ricchi si cureranno, mentre i poveri potranno, anzi, dovranno morire. Nell'era della cosiddetta globalizzazione ci fanno credere che i poveri sono diminuiti. Io provo ad immaginare il futuro, il prossimo futuro, non quello tanto lontano, e vedo che i rampanti, quelli senza scrupoli, forse si faranno spazio, ma gli altri dovranno necessariamente soccombere. In fin dei conti, una volta ci pensavano le guerre, le epidemie, le pestilenze e quant'altro a decimare le popolazioni. Oggi invece ci pensano droga, alcol e altre diavolerie del genere. In questi ultimi anni hanno perso di significato alcuni valori. Infatti la gente è molto più sola, si è sempre più individualisti. La solidarietà è andata a farsi benedire e ci si rifugia sempre più spesso nel privato. Ormai il dio denaro ha preso il sopravvento sul resto. La gente rincorre il miraggio del guadagno facile. Vedi lotterie, superenalotto. I ragazzi vogliono tutto e subito. Gli adulti non sono più in grado di arginare un meccanismo diabolico che loro stessi hanno messo in moto e di cui non hanno valutato la portata nel tempo. In questo contesto sarebbe opportuno ritrovare degli obiettivi e degli orizzonti comuni in grado di ridare nuovo significato e nuova linfa alla nostra vita, fin troppo strozzata dal logorio dei ritmi moderni e vanesi. Alle lesbiche e alle donne chiediamo di unirsi per trovare insieme delle risposte in grado di cambiare il mondo. E sulle note delle Kick la Luna, Ich Will, volevo leggervi un pensiero di Audre Lorde del 1978. La nostra consapevolezza erotica ci potenzia e diventa una lente attraverso la quale scrutiamo tutti gli aspetti della nostra esistenza. Non ci permette di accontentarci di ciò che è conveniente, scadente, di accettare l'aspettativa convenzionale, la semplice sicurezza. In contatto con l'erotico, io divento meno incline ad accettare la mancanza di potere o gli altri stati sostitutivi dell'essere. Riconoscere il potere dell'erotico nelle nostre vite può darci l'energia di perseguire un'autentica trasformazione nel nostro mondo. Ich stehe dann auf dem Plan. Die Angst, sich zu verlieren, schwappt dann plötzlich in mir hoch. Mein Herz, wenn man Blick überhört und treibt mich in den Wahn. Gefühl dazu zu reden, davon hab ich jetzt genug. Endlos Diskussionen, die ins Wahnsinn mehr. Gar nicht, ich bin glücklich in meinem Mut reinkommen. Ich brauch andere Visionen und hab ich damit ganz allein. Get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Yeah. Avete ascoltato?